essere con un fischio per fare. La colonia. Capito, Giuseppe. Capito perfettamente. Non avevo guardato nessuno io. Ma non so. Sono stato un pochettino, così diciamo, scioccato. Magari tu gli hai detto che non ci credevi e è caduto su di lì, che dice, fa che siamo che ti dica. Beh, lo so, sono cose che non un po' di collo. Io ti dico la verità, un periodo mi sono sentito talmente scaroniato che mi sono fatto fare la medicina di lupo. Mi hanno fatto fare, mi hanno trovato che mi hanno fatto questa preghiera, mi hanno dato delle cose da portare in tasca. E ti dirò, sarà diciamo una coincidenza, ma in quel periodo poi non mi è più successo nulla. No, ma lo sai che cosa è la cosa che mi ha un pochettino scioccato? È che io l'ho letta così, l'ho buttata così, quando queste persone si sono girate che non sono tanto per il naso. Stavano partendo, hanno anche salutato, io ho salutato, come sono girato le spalle, che io sono entrato in quella casa che era loro snavano. E come sono entrato a toccare, ho detto, ma non devo essere agita in senso, ma va a far culo, non arrivo a casa tua. Quella parola mi è rimasta un pochettino indigesta, ma dai, l'ho detta, io l'ho detta così, dai. Però non c'era nessuna cattiveria, perché non ci chiede appunto quelle cose, però mi c'è partita così quella frase, ha detto sì, quella persona non arriva a casa tua. Però boh, mi è rimasta, sono rimasto un bel po' di tempo che non, insomma, ci ho toccato, non vorrei, boh, ma vabbè, ho detto lasciamo perdere, non ci credo anche. Ma per pago forendici, non è certo perché ti hai detto quella frase che vorrei, morta perché doveva succedere. Quando non ti deve succedere, guarda che io ero morto, me l'ho vista brutta per due volte, una volta sulla Budi, stavo in corsia di sorpasso, questa macchina è uscita dalla fila, mentre io stavo già sorpassando, in più lei mentre sorpassava dall'incrocio è uscita la macchina, questo che ha sorpassato. Frenato di colpo perché mi stava crescendo dall'incrocio, io ero dietro, capito? Ero dietro di lui, quindi ho frenato anche io di colpo e me l'ho scappata, sono riuscito a rientrare. La seconda porta un torre, stavo sorpassando una macchina con la moto, questo qui ha preso e ha svoltato verso sinistra senza guardare. Me l'ho trovata avanti. Per dire, se non ti deve succedere, non ti succede. No, vabbè, ci è arrivato per un po' di tempo questa cosa così, perché io ho detto questa frase, non è che ci chiamo dire che doveva succedere per forza, però le circostanze, capito, mi dà la favorità di un sì e io che ho risposto, cioè ho risposto, ho salutato, ho fatto come una specie di dietro le spalle di via cacca. Riprendo io un secondo, 5 minuti che mi stanno chiamando, vengo subito. Sì, vabbè, per non è certo per quello, c'è solo perché doveva succedere. Vabbè. Ma io non ci ho mai creduto, quando ci facevamo finire la scuola c'era una signora che è vicino alla mia università in via, la via che scende al Duomo, quella via lì, faceva le carte, ti leggeva le mani, tutte queste cose qua. E andavamo per divertimento più che altro, ci prendeva 10.000 a testa, 10.000 lire a testa e ci faceva le carte, però sai che mi bella azzeccata. Aspetta un attimo, tu qual è la freccia che sei bloccata? La seconda, aspetta che vado a guardare. Ma tu sei scemo, vedi che stazione è scemo, quella lì sono Luca. Perché siccome tra tutti e due c'è un assorbimento di 19 ampere, quindi 19 ampere c'è. Va, va la grande. Manopola del Volse rimanevano sempre su 13,8. Vabbè, mi andava anche bene quella tensione lì, però non pilotava, se tu lo volevi a 3, a 2, cosa come l'altro, non te lo faceva. No, allora deve per forza muoversi in capo, se no come fa? E comunque ti articola qualcosa, qualcosa lì. Lo so. Quel papà, se tu ti trovassi la casa svaliciata, senza oro, senza la roba che a cui tieni, tutti gli apparati rubati, tutto quanto, se cosa faresti? Non ti farebbe piacere se magari uno vedesse la persona che sta scappando che le fa bloccare i carabinieri oppure li blocca una cosa. Io metto nei panni anche delle altre persone, mi dà un po' di fastidio favorire la delinquenza, perché io ho fatto questo discorso, in realtà scusa, se tu non chiami le forze dell'ordine, favorisci la delinquenza così. Ma non sei certo tu che devi bloccare queste cose, ci devono pensare loro a fare i giri e controllare. Capa, ma cioè io non so, però succede quello che è successo a me, che io ho fatto la cosa, cioè gira, sto convinto sotto interrogatorio, fermare le palle, poi questo hanno rubato le palle più a me, che chiamano, l'ho trovato a rubarlo. Lo so, è così. Tu pensa che ci ho passato un'ora e mezza sotto il turchio, non ti dico altro. Sono rientrato. No, si è incendiato il capannone. Io avevo appena messo il camion per papà dentro. Sì, non l'avevo tolto, non messo dentro. Era carico, l'avevo tolto quando sono andato sotto casa, perché di domani non sapevo come fare andare al capannone. Mi sono fatto accompagnare da un amico. E che dopo un quarto d'ora il capannone ha preso fuoco. Praticamente stavano pensando che stessi fumando, che qua, che là. Un'ora e mezza interrogando. La prima cosa che metto, prego, fuma. Ho detto sì, grazie, ho preso la sigaretta. Allora stava fumando quando era dentro il capannone. E ho detto no, assolutamente, perché quando io lavoro non fumo. E lì l'ho un po', capito. Ma c'era un racket in quel periodo, hanno trovato la tetta già sfondata, c'era la tetta dell'internite, l'avevano sfondata, buttato qualche cosa c'era, era il periodo di agosto, avevamo fatto il carico di cantegica e tutto quanto, perché quegli autisti vanno in ferie, quindi avevano caricato, ha fatto più di un miliardo di danni. Avanti, oh, Giuseppe. Capo. scappa, stava ascoltando con l'interesse, e sono situazioni un po' antipatiche comunque. E poi perché non è abituato, Giuseppe, io grazie a Dio non ci sono mai stato in questo, quindi è successo che io avevo il 40, allora me l'avevano fatto caricare e ho telefonato a questo amico, ho detto dove scocci, quindi lo mettiamo sotto casa, lo metto a retromarcia e attaccato al muro di modo che non possano aprirlo. Così domani parto un carico e se devo andare al campanile non sapevo come fare. E questo mi ha accompagnato, addirittura non è entrato manco dentro il campanile, io ho preso il camion, chiuso, mi sono assicurato che lui ci fosse lo spento e tutto, e poi me ne sono andato. Anzi, qua la mia, questo amico mio si è fermato per pisciare, però l'ha fatta fuori, non dentro, non c'è entrato nemmeno dentro, perché dentro, dai, entra, io ho detto, no, non c'è anche più il carto principale, cosa ci faccio insieme a te? Poi pensa male, magari, non entro nemmeno, vabbè. Non è entrata, la verità. Questo particolare che mi si era fermato per fare la pipì, io l'ho raccontata. Quando l'ho richiamata a lui, lui non se lo ricordava più. E la cosa lì hanno cominciato a sospettare. Ma se non è stato lei, chi è stato? Lui gli ha detto, cercatemelo chi è stato. Io non so. Dopo, perché ha detto, lei gli ha messo fuoco al capannone, questo per là. Questa ricordo mi stava, dice già, se mi ha telefonato, un cazzo mi ha messo nei calzini, qui hanno tirato i capelli, mi stavano, mi volevano picchiare per farmi parlare, dice cazzo, ma cioè io cazzo, non ho arrivato nulla, ti ho arrivato un piazzini e mi ha messo nei calzini, io ti ho messo nei calzini, tu se lo sei, per me sì, ma lo so che secondo la persona, però non sa cos'è, che adesso mi stavo trovando la campagna sporco, che non telefonato, mi hanno detto, si muove a venire subito in questura, eccetera, eccetera, eccetera, e io mi sto lavando, adesso ne faccio una doccia prima, gli ho detto di mollare tutto, se no le mando la pattuglia a casa. Lui ha preso, si è fatto la doccia, tra le altre cose, ha rifatto con là dove ha smontato il trucco, quindi ha già trovato incazzata. Lì le danze le aprono e le chiudono loro, mi, in questura, come quando vogliono loro, purtroppo. Giuseppe? Dimmi, Pierpa. Poi guai a farsi rapinare anche. Perché, Pierpa? Io sono stato rapinato 2 anni fa. Non ti dico cosa tutto mi hanno fatto fare. Addirittura. Non so quante ore ho passato, delle ore in questura a sfogliare e risfogliare tutte le fotografie, ognuno che ne prelevava l'arrestava, da qualsiasi ora che arrestavano dovevo andare a identificarlo, di mattina, di sera, di notte, in tutte le maniere me l'hanno fatto, ogni tanto passava la pattuglia, via che abbiamo preso uno a identificarlo. Ci credo perché poi ti senti violata anche la tua privacy e tutte quelle cose lì, cioè ci sono anche modi e modi per poterla fare una cosa. È tutto perché un imbecille mi ha puntato la pistola, mi ha portato lì dietro la Fiat, ha voluto i soldi, li ho dati, va bene, si è andato, tranquillo e pacifico, e basta, tutto lì. Probabilmente era anche finta, tutto l'interrogatorio lì riconosce la ci credo. Perché, come disse qualcuno, oltre al danno anche la beffa. Certo che, guarda, a saperlo, se realmente era una pistola vera, o falsa, saperlo che era falsa. Il tipo con me, dal motocarro, non sarebbe più uscito, sai, sarebbe stata la sua tomba. Però la certezza matematica in quei casi lì non la si può avere, perché nervoso tu che hai a lei puntata sul fianco, nervoso lui che ha il coltello dalla parte del manico, io avrei detto dove mi devo fermare? Qui? No, aspetta, andiamo lì dietro che è ancora più nascosto, cosa ti devo dare? Questo, tieni, ciao e arrivederci. No, vabbè, non ha piacere perché camminando in quel pezzo gli ho detto è facile, gli ho detto riparsi dietro una pistola. Prova ad andare all'armipario a vedere se sei così eroe. E lì era un pochettino nervosetto, l'ho lasciato perdere, ho detto ah, tanto non avevo la pena di fare gli eroi di fronte a un'arma, non c'è. Se sarebbe stato un coltello, già gliel'avrei acconcata. Ci posso credere alla grande, Pierpa. Sicuramente quella pistola se lui se l'aveva gustata pezzo per pezzo, però rimane sempre il punto di domanda, era o non era? E in mezzo al dubbio, meglio sempre soprassedere, meglio stare tranquilli, perché molte volte chi vi ha scambiato per pistole giocattolo è veramente partito il colpo, e lì puoi tornare indietro, non puoi, una volta che parte non torni più indietro. Infatti com'è? Il supermercato di via, come si chiama? Di via Rosso, come si chiama? Che ho preso per pistola giocata e lui invece ha sparato in alto e ha fatto dei bei buchi sul coso del supermercato. Lì era stato un errore perché invece in tirare in aria poi lui poteva tirare fuori in fascia. Vabbè, ha detto c'è un errore, io devo chiudere perché qua se no non dormo. Io vi saluto. Positivo, ciao Pierpa, serena notte anche a te, buon inizio di trabacco per domani e approfitto anch'io per salutarvi, ciao Pierpaolo, ciao Doppio Rum, Antonio e tutti gli eventuali ascoltoni, ce la riascoltiamo tranquillamente a domani, ciao a tutti. Ciao Giuseppe, ciao Pierpaolo, buonanotte, buon trabacco per domani, dai. Ciao Antonio. Se stai chiudendo. Vabbè. Allora, detto questo, saluto che ti desidero più bello in ascolto i vari amici di Bohu. Ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte Gianni, buonanotte Giuseppe e a tutti gli ascoltoni. E risentiamo tutta domani alla prossima. Ciao, buonanotte a tutti. Ciao.